Viamne dal cifra mitiche

quel dì tremante vissi d'ignoto amor di quell'amor, quell'amor che palpito dell'universo intero misterioso, misterioso altero, croce, croce delizia, delizia al cuor. Ma se ciò vero tu scegemi, sola mi sta, io offro, amare questo, mi so, molto, molto, così meno il tuo amore. Io sono franca, scenua, a già cercare thank you. Sempre libera de giorno, ogni giorno muoia, sempre lieta nel ritmo lì. Io vivo quasi in cielo, ciel. Annina, donde vieni? Da Parigi. Chi te lo commise? Fu la mia signora. Perché? Mai sento lo spendio è grande a viver qui solinchi e tacevi di cui silenzio imposto imposto orba bisogna di te Luigi orvanne andrò a Parigi questo colloquio non sappia la signora il tutto valgo a riparare ancora. Se Alfredo negar angeli tuoi. Conosco il sangue fiato il sacrificio sarà del vostro cuore, d'una pria così nobile sarete fiera allora. Sì, sì, sì. Conosca il sacrificio, fiera. Io consumo il amore, fiera allora. Il sacrificio sarà del vostro cuore. Oh sì, un'opera così nobile, un'opera così nobile, sarete fiere. Oh, sospiro, sospiro. Vai, cor mio, ardite. Non ci vedrem più forse. Siate felice. Addio. Addio. Scritto mi lasciava, però l'attendo, t'amerà invaderti. E qui non mi sorprenda, lascia che m'allontani. Tu lo calma, ai piedi suoi mi getterai.

baci. Violetta! Non ne so! Prendi svolto! Bravo! Bramate! Queste luoghe abbandonate! Un briglio

nostro che l'ama, egli è fedele. Non puoi comprendere.

poscia mie lettere, ma poi nulla corrò, sollecita se puoi. Teneste la promessa, la di sfida e bell'uomo, il barone fu ferito, però migliore. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato, e egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò, curatevi, mertate un avvenir migliore. Giorgio Germone, è tardi, attendo, attendo, ne aggiungo mai. Thank you.

Oh. ansia si terribil, qui non mi trasentia, qui non mi trasentia. Si una pudica vergine degli anni suoi ne fiore a te donasse il cuore sposa di sia, sposa di sia. 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听。 我喜欢旅游，喜欢拿着单反。